Con Mario Gelardi per parlare della Paranza dei Bambini, spettacolo di cui è coautore, che sarà al Piccolo Eliseo dal 29 novembre al 17 di dicembre. Intanto Mario, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie e benvenuti a voi. Allora, ci racconti un po' di come nasce questo progetto, che ha delle radici che vanno un po' più indietro nel tempo. Sì, addirittura iniziano prima che Roberto scrivesse il libro, frequentava il nostro teatro, che è una storia particolare. Noi siamo un gruppo che lavoriamo in uno dei quartieri più a rischio della città, che si chiama Rione Sanità. Abbiamo un teatro in quel quartiere con alcuni ragazzi di quel quartiere. Roberto ha deciso di seguire il nostro lavoro, ha conosciuto questi ragazzi e un giorno disse: vorrei scrivere qualcosa che voi potete portare in teatro. E così ha fatto un libro che noi potevamo realizzare come opera teatrale. È venuto da noi, ci ha raccontato le storie da vicino, abbiamo scelto insieme cosa fare e cosa non fare di questo spettacolo, di queste storie, e finalmente è diventato uno spettacolo. Senti, una curiosità, chiaramente per chi ci ascolta, come si chiama il teatro in questione a Napoli e quanti ragazzi stanno seguendo le vostre attività? Il teatro si chiama Nuovo Teatro Sanità, è cogestito da un gruppo di professionisti, io sono il più grande, ho 50 anni, e da 20 ragazzi del quartiere, e in questo momento abbiamo 67 iscritti ai nostri laboratori di teatro e una quarantina di bambini, laboratori che sono tutti gratuiti. Sì, sì. Senti, come è nato e come si sta sviluppando il progetto? Ma l'idea è quello di raccontare qualche cosa sulla camorra, sulle mafie in generale, che non era già stato raccontato. Io ho realizzato anche la versione teatrale di Camorra qualche anno fa ormai, e quindi di raccontare questa nuova fase che vede ragazzi considerati di buona famiglia, ragazzi normali, avvicinarsi al crimine come via di fuga da una realtà economica per loro assolutamente svantaggiata, ma anche come mezzo di potere per controllare quello che interessa essenzialmente le mafie, le persone, le città e i territori, in particolare a Napoli. Diciamo che questa storia è interessante perché ci fa capire come nei territori che ora noi segnaliamo a rischio, dico una zona per tutte, Ostia, riusciamo a capire quali sono i segnali che possono degenerare. Sì, sì, sì. Senti Mario, com'è stato il lavoro drammaturgico insieme a Roberto? Beh, parliamo di un libro di più di 400 pagine che noi sapevamo avrebbe avuto anche un continuo, quindi una storia enorme. La prima scelta che uno fa ovviamente è decidere che cosa raccontare, non si può raccontare tutto, si decidono delle linee narrative, io ho accorpato anche alcuni dei personaggi ma cercando di lasciare lo spirito. Poi una linea stilistica che è quella di rendere questo spettacolo un pochino più epico rispetto al libro e di ispirarci in questo caso ai fumetti americani, in particolare a Frank Miller. Mm-hmm. Senti, voglio sapere anche come sta andando, dove lo state portando, che reazioni ci sono state alle repliche? Noi siamo stati a Napoli 3 settimane, devo dire, con un emozionante successo, poi siamo stati al Festival di Spoleto con non altrettanto successo, poi siamo stati a Bari e ora riprendiamo da Roma, e come sempre purtroppo per questa tipologia di spettacoli facciamo da Roma in su e facciamo pochissimo meridione. Concluderemo questo percorso al Teatro Trianon a Napoli, che sta nel quartiere in cui è ambientata la storia del libro, e quindi ci sembrava particolarmente simbolico finire lì. Senti, poco sud, ma per difficoltà oggettive? Beh, la situazione teatrale in questo momento è diciamo modificata e degenerata. Il sud ha pochissimi soldi, sì, questo è uno spettacolo con 10 attori, quindi si può considerare una produzione importante pur essendo i ragazzi in scena molto giovani, quindi è difficile spostarla, è un po' perché purtroppo certi temi ancora risultano un po' fastidiosi alle orecchie di alcuni. Sì, sì. Ecco, rispetto alla realtà napoletana, due cose chiaramente, visto il tema, mi interessava parlarne con te. Uno, della situazione della città rispetto anche alla criminalità organizzata, e l'altra la realtà teatrale, che mi sembra piuttosto vivace. Per quanto riguarda questa nuova Camuda è una Camuda che non ha una vera e propria identità, che sta trovando e cercando una forma, quindi è una Camuda un pochino più violenta, più movimentata, più indefinibile. Io vivo in un quartiere di 32.000 abitanti, ho 3 telecamere in questo momento, sono state inaugurate qualche giorno fa, puntate sul teatro e sulla via di fuga del teatro, perché purtroppo non è stato raro che nelle strade che porta al teatro ci siano state sparatorie e anche purtroppo qualche ferito grave. Nel nostro quartiere ci fu 2 anni fa la morte di un ragazzino di 14 anni che per scappare a una di queste stese, così si chiamano questi raid indiscriminati, purtroppo è stato ucciso. Mm-hmm. In questo ambiente noi proviamo a fare teatro. Sì, sì, sì. Senti, mi sembrava, sono stato qualche settimana fa per l'Armata dei Sonnambuli e ho trovato una realtà giovane che segue con molto interesse. Mi sembra anche la proposta culturale sia piuttosto dinamica. Ma guarda, Napoli è una delle poche città in cui gli spazi teatrali continuano ad aprirsi, soprattutto grazie ai giovani che si mettono insieme e vogliono trovare una collocazione al di là di quello che io chiamo il teatro ministeriale, cioè trovare una propria identità. È in continuo fermento, noi abbiamo un pubblico estremamente giovane nel nostro teatro, abbiamo avuto la fortuna che attori importanti hanno voluto, come dire, venire da noi perché hanno capito il progetto, uno su tutti è Tony Servillo per esempio, e questo ci rinfranca e ci fa venire anche tanta voglia di trovare strade diverse a quelle comuni per trovare fondi e per trovare la possibilità di andare in scena. Allora ripetiamolo, la Paranza dei Bambini al Piccolo Eliseo dal 29 novembre al 17 dicembre. Avete vostri riferimenti web, pagina Facebook, sito internet? Sì, abbiamo sia il sito che soprattutto la pagina Facebook del teatro, del Nuovo Teatro Sanità. È sempre gradito, come dire, un saluto su quella pagina. Benissimo, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci grazie, presto. Grazie.